La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla Quota Rosa. Oggi ci occupiamo dell'Europa e delle donne islamiche, i diritti che l'Europa deve garantire alle donne islamiche, ma anche le battaglie che l'Europa deve fare per emancipare e per garantire i diritti di tutte le donne e quindi anche di quelle islamiche. E prendiamo spunto dalla cronaca, da una principessa in fuga. Londra ha concesso l'asilo ad un'adultera e in Arabia avrebbe rischiato la vita, e il Regno Unito ha deciso di far sì che questa principessa possa rimanere a vivere in Inghilterra. Allora, per parlare di questo caso che un po' riempito i giornali, abbiamo Leonardo Maesiano, corrispondente del Sole 24 Ore a Londra. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a voi. Che cosa è successo? Questo è un caso isolato? È perché lei era una principessa, oppure Londra invece ha assunto una posizione precisa? Londra, innanzitutto, in questione sul problema dell'asilo politico, la concessione dello status di rifugiato, è uno dei paesi che è sempre stato all'avanguardia in Europa, non? Per questo c'è sempre stata una fortissima immigrazione, soprattutto dai paesi islamici, ma in generale dai paesi in via di sviluppo, di gente che viene, magari anche per esigenze economiche, però rivendicando la condizione appunto di rifugiato politico. Il caso della principessa in questione è una storia recente, ma non è l'unica. In questo caso appunto è in qualche modo imparentata con la famiglia saudita, anche se non si sa bene a che livello, essendo tra l'altro la famiglia saudita notoriamente sconfinata, perché non si sa, perché l'identità della donna è stata tenuta ovviamente segreta. Il tribunale le ha concesso lo status di rifugiato perché se fosse rientrata nel suo paese avrebbe rischiato la vita. Perché? Perché aveva avuto una relazione con un giovane, era rimasta inglese, è rimasta incinta, e quindi era una condizione inaccettabile per la Sharia, insomma, in base alla legge islamica. Quindi, però questo non è l'unico caso. Il fatto che sia principessa, come dire, aggiunge un'aura di mistero e di fiaba a tutta la vicenda, però in realtà ci sarebbero ci sono più di 10 richieste analoghe di cittadini sauditi, cittadine saudite, cittadini o cittadine, intendiamoci, che chiedono lo status di rifugiato perché temono di essere perseguitati in caso di rientro nel regno. Molte di queste certamente sono donne, anche se non c'è la certezza che siano tutte. Su questo tema il presidente della Commissione Interni della Camera, Kate Vass, è stato abbastanza esplicito perché è intervenuto dicendo che la vicenda della principessa è assolutamente positiva, l'esito intendo dire, cioè il fatto che le sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, e si augura che altre vicende del genere si risolvano nello stesso modo, perché questo a suo avviso è, come dire, lo spirito della legge sul diritto d'asilo in vigore in Inghilterra. Però questo diritto d'asilo poi dovrebbe un po' spingere anche i paesi europei a far sì che i diritti, no, vengano rispettati in Arabia Saudita, che noi sappiamo che invece i diritti delle donne sono proprio assolutamente inesistenti. Ecco, tu pensi che attraverso questo strumento del diritto d'asilo si voglia anche un po' rendere consapevole l'Arabia Saudita, che non può sempre schiacciare le donne e i loro diritti? Sappiamo che le donne vengono lapidate, 40 almeno sono state giustiziate dal 1990, di quelle che si sanno ovviamente. In Arabia Saudita mancano i diritti elementari, le donne non possono nemmeno guidare la macchina. Che cosa fa poi il Regno Unito in questo caso e l'Europa in particolare? Ma tu hai visto una differenza, o si è semplicemente dato asilo a questa principessa e basta? Ma è difficile intervenire nei rapporti bilaterali in generale di tutti i paesi europei, certamente dell'Inghilterra, che ha rapporti strettissimi con tutto il mondo arabo e con l'Arabia Saudita in particolare. Evidentemente la questione dei diritti umani in generale è sempre tenuta presente, sbatte contro le leggi, regole, tradizioni che possono piacere o dispiacere, quindi è difficile che ci sia una pressione politica. C'è, ma è sostanzialmente formale, nel senso che difficilmente queste cose poi ottengono dei risultati. Non si è mai visto, molto raramente, in casi estremi, proprio l'associazione, come dire, di misure economiche o politico-economiche per forzare un paese a cambiare la sua politica nei diritti umani, soprattutto se strettamente legata o secondo una certa interpretazione ovviamente a questioni religiose. È quello che dovrebbe succedere, intendiamoci, non ci sono dei record particolarmente straordinari o di grande successo. La cosa positiva è che comunque l'Inghilterra garantisce con relativa facilità la condizione di rifugiato e quindi, come dire, diventa un approdo possibile. Insomma, la vecchia Inghilterra si distingue almeno per il fatto che se c'è un problema di diritti umani, dà asilo politico molto più facilmente magari che altri paesi europei. Rita Borsellino, eurodeputata del PD, Roberta Angelilli, eurodeputata del PDL, il Parlamento europeo si è da pochissimo insediato. Che cosa bisogna fare in questi casi, soprattutto per far sì che i diritti delle donne siano affermati e difesi? A Rita Borsellino voglio chiedere: magari si può cambiare la legge sul diritto d'asilo, si può rendere una legge omogenea in tutta Europa, soprattutto riguardo a questo caso specifico? Certo che la legge debba essere omogenea a tutta Europa mi sembra un fatto sicuramente importante, ci vogliono regole precise, ci vuole certezza. Il caso della principessa che viene, della donna che viene accolta in Inghilterra, a cui si riconosce il diritto di asilo, è deve essere una certezza non soltanto per questa donna, ma deve essere una certezza per tutti coloro che debbano avere la possibilità anche di chiedere il diritto d'asilo. Ricordiamoci quello che è successo in Italia con i respingimenti in mare, in cui non sappiamo neppure se ci fossero delle persone che richiedevano il diritto d'asilo. La quota rosa. E torniamo a parlare di diritto d'asilo, torniamo a parlare di diritti delle donne negati in altri paesi e affermati in Europa, e torniamo a parlare con Rita Borsellino. Appunto, stavamo dicendo, è il caso di uniformare questo diritto d'asilo in tutta Europa? Certamente, dicevo proprio questo, il diritto d'asilo deve essere una certezza e una garanzia per chiunque sia nelle condizioni di richiederlo, e dicevo bisogna mettere nelle condizioni di poter richiedere tutte le persone che si trovano in questa situazione. Facevo riferimento ai respingimenti in mare che sono stati fatti purtroppo in Italia, su cui fra l'altro io ho sollecitato l'attenzione della Commissione, del Commissario, perché non sappiamo neppure se tra quelle persone che sono state respinte ci fossero delle persone che si trovavano in una situazione di questo genere. Parlo in particolare delle donne, perché in questo caso stiamo parlando delle donne. Ci sono poi tante altre situazioni e tante altre limitazioni, io credo che invece debbano essere regolamentate proprio a livello europeo, perché, ripeto, bisogna dare delle certezze. C'è il caso per esempio di quello che accade in Francia con il problema del burka, si deve proibire, non si deve proibire. Allora, nel pieno rispetto sicuramente delle libertà delle donne, bisogna però rendersi conto se effettivamente si tratta delle libertà o sono delle imposizioni. Molte donne dicono che portano il burka perché è una loro scelta, ma bisogna vedere se questo invece non è frutto di una cultura coercitiva nei confronti della donna, che non sa, probabilmente non percepisce neanche di avere un diritto diverso. Allora io credo che l'Europa, proprio per la sua multiculturalità, per la sua multietnicità, deve porre delle regole precise che siano a tutela del diritto della donna, e non soltanto questo, deve favorire anche la cultura della donna, deve favorire anche l'autodeterminazione della donna, che deve assumere sempre più coscienza di sé e di quelli che sono i suoi diritti. E quindi in questo caso serve soprattutto la prevenzione, diciamo così, serve l'educazione, serve l'aiuto anche dei mediatori culturali, degli assistenti sociali, che in Europa devono avere un ruolo importante nel accompagnare la donna anche in questa acquisizione della coscienza dei propri diritti. Allora, Roberta Angelilli, abbiamo sentito Rita Borsellino che dice, eurodeputata del PD, bisogna che l'Europa abbia poi una legislazione comune sul diritto d'asilo, sul rispetto anche dei diritti delle donne. Cioè, Sarkozy dice mai più il burqa in Francia, anche in Italia il velo totale è vietato, però insomma ci vorrebbe forse una regolazione europea, no? Ogni paese deve fare come gli pare, come ha fatto finora? No, direi di no. Allora, innanzitutto sul tema del diritto d'asilo c'è già la consapevolezza nell'Unione Europea che questa deve essere, da un punto di vista legislativo, una priorità della prossima legislatura. Nella scorsa legislatura noi abbiamo già avviato un dibattito, ma da settembre l'obiettivo è proprio quello di elaborare dei documenti legislativi che cerchino di fare chiarezza, quindi di dettare norme comuni, regole certe proprio sul diritto d'asilo, proprio per dare spazio alla legalità, ai diritti umani, alla tutela dei soggetti più deboli, quindi veramente rivalutare questo diritto e questa opportunità affinché in qualche modo ci sia un filo conduttore in tutti e 27 gli Stati membri. Per quanto riguarda i diritti delle donne e i diritti umani, io sono d'accordo innanzitutto con l'onorevole Borsellino quando dice attenzione a quando si parla di diritti, perché talvolta se si parla di burka, se si parla per esempio di mutilazioni genitali, quelli non sono diritti, spesso sono delle imposizioni, spesso sono delle superstizioni. Senza spesso, le mutilazioni genitali sono... No, imposizioni ed è una violazione del corpo della donna, una violazione dei diritti umani. Sono assimilate a delle torture vere e proprie, perché sono delle mutilazioni proprio, veramente. In questo caso noi dobbiamo essere molto chiari, e tant'è che nella scorsa legislatura al Parlamento europeo noi abbiamo chiesto anche su questo una legislazione comune per i 27 Stati membri. Poi ovviamente il dibattito si deve aprire per cercare di trovare un giusto equilibrio tra il rispetto delle identità culturali, religiose, tradizionali delle persone che vengono da altri paesi extraeuropei, ma queste identità in qualche modo si devono amalgamare, si devono integrare nel rispetto di quelli che sono i valori condivisi dei paesi membri dell'Unione Europea, quindi c'è un lungo percorso da fare che deve essere fatto all'insegna dei diritti, all'insegna dell'integrazione e appunto andando però ad identificare quelli che diritti non sono, ma sono proprio delle vere e proprie violazioni che spesso si consumano nel silenzio e nell'indifferenza. Quindi insomma lei si impegnerà per avere una legislazione comune tra i paesi europei, perché sembra sempre che questo Parlamento europeo venga eletto, poi alla fine queste leggi insomma stentano a essere fatte, oppure si stenta poi a trovare un accordo tra vari paesi? Qualcosa si è fatto, si sono fatti numerosi passi avanti, penso per esempio sempre a quello che è stato già fatto nella scorsa legislatura, noi abbiamo approvato una strategia europea per i diritti dei minori che dedica proprio due capitoli in maniera specifica alla violazione dei diritti sulle bambine e quindi sulle minori, e abbiamo identificato come priorità che devono essere ovviamente legislative all'interno degli Stati membri proprio i diritti d'onore, matrimoni forzati, le mutilazioni genitali e comunque tutte le altre forme di imposizione culturale o religiosa, e abbiamo anche espresso un auspicio, e cioè quello di vietare il velo, ovviamente assolutamente il burka, quantomeno nella scuola primaria, proprio questo per cercare cercare di dare ai bambini la possibilità, come dire, di scegliere di non, diciamo, di non vivere delle contrapposizioni religiose o culturali e quindi di mantenere all'interno appunto dell'istituzione scolastica una forte laicità. Allora, noi veniamo adesso invece a parlare dall'Europa, da Strasburgo, vediamo di guardare il nostro paese. È successo recentemente che ci sono dei casi all'inverso, perché qui bisogna anche poi cercare di proteggere le donne quando decidono di mettere il velo, che ricordiamo non è il burka, non è il velo integrale, vuol dire che si mette il velo sui capelli ma si lascia il viso scoperto, e questo ovviamente è assolutamente legale in Italia. E a un certo punto abbiamo avuto una situazione alla Reggia di Savoia, alla Menaria, di una impiegata che alla biglietteria ha praticamente aveva il velo perché musulmana, Yamna, 35 anni, a Torino. E invece che cosa succede? Molte persone si sono un po' frenate, sono state un po' frenate da questa impiegata alla biglietteria della Reggia con il velo, e a quel punto le colleghe stesse, italiane, cattoliche o comunque agnostico o di qualsiasi altra religione siano, ma non musulmana, si sono messe il velo per solidarietà. E anche in Italia abbiamo poi un'offesa della maestra elementare di Padova, due allievi musulmani, toglietevi sto velo. Poi abbiamo avuto a Venezia anche una donna con niqab che non venne fatta entrare in un museo. Insomma, c'è un razzismo al contrario. Rita Borsellino, eurodeputata del PD, quando si tratta di donne con il velo, noi abbiamo, anche noi donne occidentali, no? Ci poniamo, cioè questo velo è proprio un velo che si intrapone tra il mio mondo e il loro mondo, il nostro mondo e il loro mondo. Ma io ritengo che sia sicuramente un abuso quello di vietare il velo. Se c'è una norma che dice che non si può portare il velo che copre il volto, è per motivi ben diversi, ma se c'è un velo che lascia scoperto il volto, io credo che insomma noi possiamo portare liberamente un foulard e lo facciamo per moda, perché ci piace o perché per qualsiasi altro motivo una donna porta il velo sulla testa perché è un'espressione della sua religione, io credo che meriti il massimo rispetto. Hanno fatto bene le colleghe italiane o di altra religione ad equipararsi, indossare, dando un segnale di grande integrazione più che di grande tolleranza. La tolleranza è sempre un termine che esclude, l'integrazione è qualcosa che include. Allora, se ci sono dei motivi di ordine pubblico, di sicurezza, come quello del coprirsi il volto, che giustamente non è permesso, è un discorso, ma se si tratta di un segno religioso, di cultura, di altro che esprime la propria personalità, la propria cultura, la propria libertà, non c'è, io ritengo, assolutamente nessun motivo di vietarlo, anzi vietarlo diventa una violenza. Roberta Angelilli, il Premier, lei è eurodeputata del PDL, ha detto che l'Italia non è un paese multietnico. Qualcuno ha affermato: e perché non va in metropolitana alle 7 del mattino o alle 7 di sera? Allora, come ci mettiamo nel caso, per esempio, di una donna musulmana che porta il velo, è un'impiegata e magari viene anche accantonata per questa sua credenza religiosa? Allora, innanzitutto io credo che, cioè io personalmente provo imbarazzo nei confronti del burka, ecco questo personalmente. Tutti, ma non è una tutti, però politica. Il burka è un'altra cosa, però, stiamo parlando del velo. Per quanto riguarda il velo, innanzitutto io voglio sommessamente ricordare che la mia bisnonna portava il fazzoletto, quindi voglio dire, senza parlare di altri paesi, di altre religioni e di altre culture, anche in Italia 50 anni fa portare un fazzoletto, coprirsi il capo, era una cosa molto usata. Quindi io non ho nessuna preclusione, io credo che ciascuno possa fare liberamente la propria scelta culturale e religiosa. Forse, magari, semplicemente, voglio dire, se si lavora in una la scuola, se si lavora in un ufficio pubblico, tutto questo a mio avviso può essere consentito, esattamente come una persona può portare un crocifisso, quindi un altro simbolo religioso, culturale, perché ovviamente tutto questo si è, come dire, non sia ostentato, sia portato in una maniera sobria, e in questo senso credo che ci sia ampia possibilità di essere liberi, di manifestare liberamente la propria identità. Insomma, e anche la Turchia sta pensando i pantaloni per le donne deputate, insomma tutti quanti si stanno invece muovendo anche a livello più occidentale. La Turchia per esempio pensa ai pantaloni, pensa a cambiare le regole dell'abbigliamento in Parlamento, mentre noi magari dovremmo accettare, onorevole Angelilli, una donna che liberamente, perché non sempre purtroppo il velo è libero, anche il velo con il volto scoperto, liberamente sceglie di vivere la sua religione in modo più integrale, diciamo. Allora, io ringrazio Rita Borsellino, Roberta Angelilli, ricordo eurodeputate PD e PDL, spero e auspico che loro producano una legge proprio per il diritto d'asilo europeo, a livello europeo, per le donne vittime di abusi e soprusi da parte degli uomini e vittime in paesi dove purtroppo non c'è ancora, è ancora molto lontana, la parità femminile, la parità sessuale. La quota rosa. E dal Parlamento europeo ci spostiamo in Africa, precisamente ci spostiamo in Ghana, lo stato dell'Africa occidentale, con Samia Nkrumah, una delle deputate del Parlamento ghanese, che appunto in questo momento si trova ad Accra. Allora Samia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quante deputate ci sono al Parlamento ghanese, deputate donne? Donne, sì, no, siamo 20 da un totale di 230. 230. Senti Samia, tu ti do del tu perché, certo, perché praticamente sei mezza italiana, quindi per questa cosa... Infatti, italiana da adottazione, perché ho vissuto quasi 10 anni. A Roma. Hai vissuto 10 anni a Roma. Allora, tu, la tua storia qual è? Tu sei nata in Ghana, ovviamente, no? Poi a un certo punto cosa è successo? Sì, dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il governo di Kwame Nkrumah nel 1966, siamo andati in Egitto, il paese di mia madre. Sì, abbiamo vissuto lì per quasi 10 anni, poi siamo tornati in Ghana. E poi sono, sì, per l'università, ho fatto l'università a Londra e poi sono tornata a lavorare in Egitto, dove ho incontrato mio marito Kelly Melega, italiano, e poi siamo andati in Italia con nostro figlio Kwame, che era piccolo, e poi ho deciso, a qualche punto ho deciso di tornare nel mio paese principale, in Ghana, e di entrare nella politica attiva per riattivare, diciamo, i progetti, le visioni di mio padre, che era stato che era stato praticamente deposto con il golpe militare, quindi era stata, sì, l'ultima. Assolutamente, per tanti anni demonizzato, e adesso piano piano con il passato degli anni il suo progetto è stato vendicato, infatti adesso c'è tante risorgenze, diciamo, per quello che ha lavorato. Quello che ha fatto lui, quindi tu sei dovuta andare via da giovane. Quanti anni avevi quando c'è stato il golpe di Stato? Avevo quasi 6 anni. Ah, quando c'è stato il golpe avevi 6 anni, dopodiché quindi hai vissuto a livello internazionale e poi sei ritornata in Ghana proprio per portare la democrazia nel tuo paese. Sì, un anno, più di un anno fa, sì, sono tornata praticamente per contestare le elezioni. Ed erano le prime elezioni libere? Infatti in Ghana abbiamo fatto tanti passi avanti verso la democrazia, almeno molte partite, quindi da 92, diciamo, 92 siamo tornati dalla democrazia. Abbiamo avuto in 2008, dicembre 2008, queste sono state le quarte elezioni, diciamo, abbastanza libere. Anche quest'anno è la seconda volta che il governo perde, il partito in governo perde e un governo di transizione pacifico dal governo alle opposizioni. Quindi questa è un'indicazione forte che la democrazia multipartitica sta crescendo. Naturalmente non è tutto questo, la democrazia più di questo, perché ancora dobbiamo lavorare sull'educazione, sull'eguaglianza tra le donne e gli uomini, giustizia sociale, ma almeno stiamo facendo passi in avanti nel multipartitica. Ecco, il Ghana, diciamo, i paesi vicino al Ghana hanno questa situazione di democrazia oppure ancora c'è molta dittatura? Ancora c'è molto da fare. Infatti Ghana è uno dei paesi più, diciamo, più in avanti, più avanzata in questo tipo di... veramente siamo molto fieri, sì, del nostro successo, diciamo, e riconoscimento anche dal mondo intero. Infatti tanti dicono che la visita recente di Presidente Obama degli Stati Uniti è stata un riconoscimento di questo passo in avanti nella democrazia che Ghana ha fatto. Ecco, parliamo della situazione della donna, Samia. È ancora una situazione tribale dove la donna subisce moltissimo oppure le donne ghanesi stanno pian piano emergendo? Le donne in Ghana sono state sempre forti, infatti nella lotta per l'indipendenza sono state all'avanguardia, al fronte della lotta, e la nostra lotta è stata pacifica, costituzionale, legale. Abbiamo dovuto fare 3 elezioni prima di Britannia dare l'indipendenza, quindi le donne hanno avuto un ruolo molto forte in questo. E le donne oggi, anche in Ghana, come in tanti paesi sotto la Sahara, lavorano, è loro che lavorano principalmente nell'agricoltura. L'agricoltura ancora rimane nostra, diciamo, forza economica. Quindi le donne hanno contributo economico fortissimo. Abbiamo bisogno di realizzare le stesse riconoscimento nell'altri settori, politica, nel settore politico e tutti i settori pubblici. Ecco. Ma naturalmente sì, ci sono tante, diciamo, sfide. La politica è diventata molto, diciamo in inglese, monetized, molto costosa materialmente. E le donne politici, per esempio, devono prima convincere il loro partiti che sono leader, prima di convincere le elettorali, ma è il momento che tu passi il primo ostacolo, è il momento che tu stai presentando agli elettori, c'è un entusiasmo per le donne, perché noi siamo anche la madre, siamo anche abbiamo un modo, la maggioranza di noi almeno un modo diverso di fare le politiche. Per esempio la mia campagna è stata molto pacifica, molto pratica anche, abbiamo fatto tanti progetti sociali, quindi abbiamo un approccio un po' come la madre, come dicevo, un approccio diverso che veramente che la reazione è positivo. Quindi c'è tanto spazio per le donne qui nella politica. Ecco, quando noi parliamo di Africa nell'immaginario italiano, no, c'è povertà, ci sono debiti che i paesi ricchi non vogliono scontare ai paesi in via di sviluppo, certo, parliamo certo. di AIDS, parliamo insomma di tante battaglie che bisogna fare. Ora tu stai parlando con l'Italia, di che cosa ha bisogno il Ghana e soprattutto di che cosa ha bisogno dai paesi occidentali? Samia. Sì, e il Ghana, come tutta la maggioranza dei paesi in Africa, sono ricchissima, risorsa minerale e umana molto molto ricca. Infatti noi sempre diciamo l'Africa è ricca ma gli africani sono poveri. Questo è il dramma dell'Africa, no? Infatti, questo significa che significa? Significa che dobbiamo fare cambiamenti strutturali. Noi sappiamo che il cambiamento deve venire da noi principalmente, da noi. Non possiamo puntare su questo o l'altro, una forza fuori per aiutare. Sì, abbiamo bisogno di cooperazione, la cooperazione delle forze progressive nel mondo. Questo certo, tutte le cose diciamo brutte nella nostra storia, come schiavitù, il colonialismo, hanno successo perché c'erano collaboratori africani. Quindi noi sappiamo che le chiavi, le soluzioni è in mani nostre, sicuramente. Ma quando diciamo collaboriamo con il mondo, diciamo il mondo del nord, il mondo ricco, diciamo che noi che abbiamo bisogno di partners veri, di partners genuini, come diciamo. E naturalmente per noi, per ristrutturare la nostra economia, perché dobbiamo produrre di più cose a casa, questo è essenziale. Dobbiamo produrre più cose a casa e dobbiamo unirsi, perché abbiamo tanti paesi piccoli che non sono, è impossibile che possano rispondere ai bisogni sociali della gente con loro piccoli, diciamo, con le loro piccole economie, piccole. Cioè, come un'Unione Europea ci deve essere un'Unione Africana, questo intendi dire tu? Abbiamo cominciato questo progetto negli anni 60 e eravamo più avanti del progetto europeo, tante gente non sanno questo, eravamo più avanti, avevamo parlato di tutto, cittadinanza comune, mercato, zona moneta, currency, moneta unica, eravamo molto avanti, ma purtroppo la guerra fredda tante cose ha interrotto questo progetto, ma è importante adesso che noi abbiamo bisogno di comprensioni del popolo del nord, che in Africa forte significa un'Europa forte, significa un'America forte, significa un'Asia forte, quello che dobbiamo capire. Quindi abbiamo bisogno di non aiuto materiale, ma abbiamo bisogno di più democrazia nelle organizzazioni nazionali, ONU, anche organizzazioni, istituzioni, istituti finanziari come la Banca Mondiale. Abbiamo bisogno di democrazia seria e genuina in queste organizzazioni per cambiare, diciamo, the rules of the game, non lo so, le leggi del gioco. Certo, noi chiediamo solo questo, più democrazia per cambiare queste situazioni che non è giusto e non è buono per il futuro. Abbiamo bisogno, il mondo ha bisogno di un'Africa forte, un'Africa economica che può dare mercati più grandi, con più capacità di assorbire il prodotto mondiale. Quindi meno dittature in Africa, più democrazia. Senti Samia, ma quando ti scade il mandato al Parlamento ghanese? In 3 anni, perché noi ogni 4 anni abbiamo elezioni. Ah, ecco, allora, guarda, in 3 anni ci sono le elezioni anche in Italia, visto che sei cittadina italiana, non è che pensi a candidarti qui, no? Perché così battagliare a noi ci serve. No, ma purtroppo ho dovuto lasciare la mia cittadinanza italiana, perché qui non puoi essere un membro del Parlamento e con un'altra nazionalità, se mi chiami, con doppia nazionalità. Ah, con doppia nazionalità. Va bene, ma adesso quando poi tu finisci il mandato lì, poi richiedi e noi ti portiamo in Italia, perché ci servono delle donne così battagliere, esempi veramente virtuosi. Allora Samia, questo sarebbe un grandissimo, anche perché anche nel nostro Parlamento, non ti crede, voi siete 20 donne e 230 uomini, ma nel nostro Parlamento la proporzione è quasi quella stessa. Allora Samia, io ti auguro un in bocca al lupo per le tue battaglie, per le battaglie per l'Africa e per le donne africane, e abbiamo ascoltato una testimonianza importantissima, Samia Nkrumah, deputata ghanese, sposata con un italiano, quindi noi la consideriamo mezza italiana, anzi tutta. Grazie e buon lavoro. La quota rosa. E adesso invece andiamo a teatro a vedere Shakespeare in un testo abbastanza difficile, La bisbetica domata, un testo che magari potremmo anche definire un pochino misogeno. L'opera di Shakespeare è stata messa in scena al Teatro Stabile di Verona e con un cast di sole donne, tranne Petruccio. Una scelta abbastanza bizzarra, ma non è la sola cosa bizzarra. Il fatto è che La bisbetica domata viene recitata in dialetto veneto contemporaneo, un po' come faceva Eduardo, che traduceva La tempesta di Shakespeare sempre in napoletano. Per parlare di questo esperimento abbiamo Paolo Valerio, il regista, e Stefania Felicioni, appunto Caterina la bisbetica. Insomma, partiamo da Paolo Valerio. Perché un cast di sole donne? Perché un cast di sole donne? Abbiamo pensato di raccontare questa bellissima storia al femminile. Sappiamo tutti che all'epoca di Shakespeare recitavano soltanto gli uomini, ci sembrava bello, interessante, anche particolare, trattare questo testo così maschilista, per così dire, in versione totalmente femminile, con accanto a 9 attrici, un attore bello e simpatico come Natalino Balasso, quindi questa è stata la scelta. E poi il dialetto veneto, contemporaneo, poi, mi diceva poc'anzi fuori onda Stefania Felicioni, no, la lingua di Goldoni, non il veneziano, dialetto veneto, veronese? Questa no, è stata un'operazione curata da Pier Mario Vescovo, che insegna a Ca' Foscari a Venezia. L'abbiamo chiamata Lingua familiare rustica recitata da 9 donne e un ubriaco. Quindi è davvero una nuova lingua che vuole raccontare un Veneto contemporaneo, quindi è in parte padovano, in parte veronese, in parte veneziano, quindi una miscellanea di questa lingua. Avete fatto come Manzoni per l'italiano che prese il fiorentino dell'Ottocento, insomma avete deciso pure Dante che invece mischiava i dialetti, quindi avete deciso di fare un Veneto tutto particolare, il Veneto doc. Allora, Stefania Felicioni, che cosa vuol dire recitare Caterina la bisbetica in Veneto? Una veneta è bisbetica? Buongiorno. Ma le venete hanno un carattere molto forte sicuramente. Questa Caterina è aiutata moltissimo da questa scelta linguistica dal punto di vista della forza teatrale e dell'efficacia, soprattutto nei giochi verbali, linguistici che in originale, nella lingua originale di Shakespeare, hanno un'immediatezza sicuramente, ma tradotti in italiano perdono della loro efficacia. Qui sono aiutata sicuramente dalla traduzione di Pier Mario Vescovo che valorizza e mette in risalto una teatralità, una forza scenica proprio di scrittura che aiuta sicuramente nell'interpretazione. Quindi non è un po' così paludata questa bisbetica? Come parla? Ci vuoi fare una battuta? Non lo so, c'è una battuta che dice «E gavé il coraggio de chamar me fia, un bel sguardo paterno e benigno, ma ve mostra a volerme maridar con un mezzo deficiente de un rufian insemenio che il par nane caso e che il spera de vincerla disendo putanae». Questa, però diciamo, insomma, che noi anche una che forza abbastanza pesante, greve, però del resto Shakespeare era volgare, era molto molto pesante nel suo turpiloqui e nelle sue, che poi venivano edulcorate nella traduzione, ma qui Pier Mario Vescovo ha premuto il pedale però devo dire che ha reso molto dal punto di vista anche del divertimento e della forza di questa scrittura. Ecco, anche perché noi non essendo veneti però abbiamo capito qualcosa. le parolacce perché... Ecco, c'è questo fatto nel Veneto, che è una cosa peculiare, particolare della vostra regione, una regione per l'altro splendida, è il fatto che ancora tra di voi parliate in dialetto, mentre nel resto d'Italia le persone generalmente non parlano in dialetto, no? C'è una sorta di oramai di strascinamento, sempre meno, perché io mi ricordo sempre meno tra i giovani, sempre meno. perché mi ricordo anche quando si incontrano due veneti, cioè ci si rivolge in italiano e poi tra di loro io comincio a sentire che parlano in dialetto, quindi ancora questa cosa non è più vera, era bellissima. Sì, è vero, però penso che riguardi soprattutto ormai le vecchie generazioni, tra i giovani è sempre più difficile. Infatti penso che sia anche un compito abbastanza necessario quello di rimetterla in scena e rimetterla nella vita, il dialetto. Io insomma penso che sia importante. Quindi insomma questa recitazione la porta, cioè vi porta praticamente a una situazione di Veneto attuale. Qual è la differenza tra il Veneto di Goldoni, per esempio? Goldoni aveva trovato, come dire, una lingua di convenzione, che non era esattamente la lingua parlata. E almeno così si dice, e mentre qui viene usata una lingua che si usa tuttora, non solo Goldoni, cioè recitare Goldoni vuol dire anche prendere delle decisioni di pronuncia, qui invece si è, come dire, ci si è abbandonati più a una spontaneità anche che mettesse un pochino in rilievo le varie differenze di pronuncia, mentre quando si recita Goldoni bisogna un pochino omologarsi e quello è un veneziano con un codice preciso, letterario, eccetera. No, volevo sentire Paolo Valero però per una cosa che riguarda invece il teatro in generale. Il governo sta tagliando i fondi unici dello spettacolo. E quanto voi artisti state combattendo è noto, perché vediamo delle grossissime battaglie anche davanti a Montecitorio. Perché bisogna far sì che questi fondi non vengano tagliati e soprattutto un teatro alternativo come quello da te proposto può bene o male fare cassa e può essere autonomo, oppure c'è sempre bisogno di un fondo teatrale, un fondo pubblico? Certo, intanto speriamo che in realtà questi tagli non avvengano, perché la battaglia è in questo senso. Io devo dire che ho ancora fiducia, speriamo che non vengano fatti, perché sarebbe davvero pesante per tutto il teatro italiano, ma per l'arte in generale, quindi credo che sarebbe un segnale non positivo. E fondamentalmente per un teatro come il nostro, quindi un teatro che comunque lavora sulla ricerca, cerca di fare nuove proposte, lavora su anche progetti drammaturgicamente diversi come questo, è fondamentale avere comunque un sostegno da parte del Ministero, da parte degli enti locali, perché è vero che lavoriamo sempre con una grande attenzione al pubblico. Ad esempio questa Disbetica Domata ha fatto 4 giorni di teatro romano esaurito, 1600 persone a sera, però come sempre per lo spettacolo dal vivo i soldi del biglietto non possono bastare a progetti produttivi importanti. E quindi il sostegno all'arte, alla cultura da parte del Ministero, secondo me, sarà sempre fondamentale. Quindi non è quello che dice Baricco, gli spettacoli si devono autoprodurre, perché poi alla fine i soldi non bastano mai, soprattutto penso... No, voi andate in scena no. Con abiti, con costumi d'epoca? O... Sì, è una riscrittura anche questa, quindi il costume non è un costume d'epoca, è un costume inventato su una sorta di falsariga comunque ambientata in questo nostro mondo shakespeariano, per cui sì, accanto a questo poi c'è un progetto scenografico molto particolare che abbiamo costruito con la Fondazione Ariano di Verona, c'è un pittore molto bravo che dipinge dal vivo scenografie virtuali, c'è un compositore che è Antonio Di Poffi, molto bravo, e quindi diventano progetti produttivi importanti con tante persone, quindi per sostenere questo tipo di arte il biglietto del pubblico, che è sempre fondamentale ma non può essere bastevole, quindi Stefania Felicioni, io parlavo con degli attori davanti a Montecitorio in questi giorni e mi dicevano non si rendono conto, anzi Mariangela Melato l'ha detto all'interno di Montecitorio, fare l'attore è un mestiere come un altro, quindi bisogna mangiare, bisogna viverci, questi fondi sono essenziali. Certo, il lavoro dell'attore non solo bisogna mangiare, bisogna viverci, ma è un lavoro anche molto così faticoso, che implica sacrifici e molte rinunce. Quindi già appunto non è un lavoro che arricchisce, non è una professione, anche se siamo dei liberi professionisti, poi non siamo liberi professionisti dal punto di vista del reddito, ecco. Però a maggior ragione quindi se veniamo anche come dire, penalizzati sulle risorse, nelle risorse diventa sempre più quasi impossibile. Ecco, poi l'attrice di per sé è un mestiere abbastanza duro perché non c'è mai una certezza, voi passate da una scrittura all'altra. Beh, è risaputo che il lavoro dell'attore è un lavoro precario, però penso che insomma fare l'attore accetti anche questa condizione di precarietà e anche la libertà implica... la precarietà è anche libertà, libertà di pensiero e di vita. È una scelta che si fa, se si fa questa scelta vuol dire che si è in grado di sopportarla e di amarla e di insomma di reggerla. Insomma, una testimonianza molto importante, perché molto spesso si parla di precariato, però ecco, ci sono dei mestieri in cui il precariato c'è sempre, anche sì, nell'altro. È una condizione. È una condizione, si sa che si intraprende una carriera che sarà sempre precaria. Allora, io ringrazio perché ci avete dato veramente dei momenti di divertimento e penso che vedervi a teatro, ricordiamo lo spettacolo poi avrà di nuovo una ripresa il prossimo anno, deve essere molto molto divertente, anche se non si è veneti, magari se si è del nord vi si capisce, giusto Stefania? Ma secondo me si capisce dappertutto. Dappertutto, perfetto. Allora ringrazio Paolo Valero, il regista, e Stefania Felicioni per questa bisbetica poco domata, un'opera di Shakespeare al Teatro Stabile di Verona. Io ringrazio Paolo Corleone in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.